30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha esortato la Russia a formare una vera partnership con gli Stati Uniti basata sui numerosi interessi comuni tra i due paesi. L'America desidera una Russia forte, pacifica e prospera, ha detto Obama in un discorso agli studenti nella New Economic School di Mosca. Non siamo più antagonisti, la vecchia logica dei blocchi si è rivelata errata. Ora cerchiamo la cooperazione, non il confronto. Due giorni di visite tra il 7 e l'8 luglio, un incontro di 4 ore con il presidente Dmitry Medvedev e poi altre 2 ore il giorno successivo con il premier Vladimir Putin nella sua dacia fuori Mosca. Il presidente americano ha detto che il reset dei rapporti tra i due paesi deve andare oltre il buon avvio già avvenuto. Ancora benvenuti a 30 minuti in cronaca, l'appuntamento del fine settimana dove ci prendiamo un po' di tempo per riflettere sulle notizie che corrono veloci, molto veloci nel nostro panorama informativo. Dunque l'incontro a Mosca, il primo viaggio del presidente degli Stati Uniti Barack Obama in Russia. Ne parliamo con l'inviata del Sole 24 Ore a Mosca, Antonella Scott. Buonasera e bentornata. Buongiorno. Dunque Antonella, il fatto è quello che, da cui partiamo. Entro 7 anni dalla firma del trattato, Stati Uniti e Russia ridurranno i loro arsenali atomici. Questo in qualche modo era il grande titolo che ha segnato questa visita. Di cosa si tratta? Cosa è stato firmato? Qual è l'obiettivo di questo accordo? Sì, non è ancora un vero trattato, ma è un memorandum d'intesa. È come se avessero fatto il punto Russia e Stati Uniti, il punto sui negoziati che sono stati avviati da aprile e dal dopo il primo incontro tra Obama e Medvedev. L'obiettivo, insomma, diciamo il traguardo è arrivare a un accordo che sostituisca il trattato START, il trattato sulla riduzione delle armi strategiche, che scade in dicembre. Quindi hanno fatto il bilancio di questi negoziati per fissare comunque degli obiettivi. Questi obiettivi saranno ridurre le testate nucleari che ciascuno dei due arsenali potrà disporre entro una gamma da 1500-1675 testate. Per fare un confronto possiamo pensare che il trattato adesso in vigore, che non è lo START ma è un secondo trattato che venne firmato a Mosca da Bush e Putin, fissa i tagli a 2200 testate a cui si deve arrivare entro il 2012. Un taglio significativo dunque e anche un grande risparmio potenziale. Sì, è soprattutto a questo che i russi puntano, cioè cercare di ridurle, loro forse desidererebbero addirittura scendere a 1000 testate nucleari. Forse comunque per farci un'idea dobbiamo comunque pensare che anche sotto, anche con arsenali di meno di 1000 testate nucleari, Stati Uniti e Russia ne hanno più che a sufficienza per distruggersi tante volte, quindi in realtà è sempre molto relativo pensare all'entità di questi tagli. C'è poi anche un altro elemento, molte sono le cose che ancora saranno da definire appunto da qui a dicembre, quando si spera di arrivare al trattato vero e proprio, e cioè i sistemi di lancio che dovrebbero scendere entro un livello di 500-1100, cioè i sottomarini, i sistemi di lancio dei missili che contengono le testate, e poi la verifica, i controlli. Questi sono tutti elementi che si sa normalmente richiedono anni di trattative. Qui si è andati veramente veloci e questo testimonia un po' il desiderio comunque di iniziare sul binario giusto. La prima visita del presidente degli Stati Uniti Barack Obama a Mosca, dunque al Cremlino, è stato anche un grande spettacolo, uno spettacolo trasmesso dalle televisioni mondiali in diretta, una serie di incontri e come dire, tutto anche quella forma che circonda la sostanza di una visita di tale importanza. Antonella Scott era al Cremlino, era nei luoghi di questi incontri, insomma, si può dire che i russi abbiano tirato fuori la loro migliore argenteria e tutto, diciamo, l'apparato possibile per accogliere il presidente degli Stati Uniti? Sì, certamente. Può anche dire che non avevano molte alternative. Quel primo giorno era gelido e la delegazione americana infatti è stata molto sorpresa, quindi scherzando Medvedev e Obama si sono detti: beh, oggi non avremmo molto di meglio da fare, che è meglio stare al chiuso. E quindi sono durati 4 ore i colloqui. Al Cremlino era anche la First Lady Michelle insieme alla moglie di Medvedev, Svetlana. Hanno visitato insieme alle bimbe e alle figlie di Obama il Cremlino, l'armeria, cioè i musei del Cremlino, il fondo dei diamanti, e anche se poi forse ha sicuramente poi cercato di colpire altrettanto la mattina dopo Putin invitando Obama a colazione con questa rappresentazione di l'organizzazione di una colazione secondo la tradizione russa, cosacca meglio, che sicuramente ha fatto la sua scena. C'era un samovar nell'angolo preparato come si usa, cioè per alimentare il fuoco, usando uno stivale cosacco come stantuffo. Anche questo sicuramente, con questo Putin ha cercato di impressionare. Anche questo faceva senz'altro parte delle modalità non verbali di comunicazione tra leader. Torniamo però all'incontro tra i presidenti. Due presidenti giovani, sono figure, certo, uno più dell'altro, con ormai un'abitudine ai media, alle telecamere, sono due uomini che vengono da una formazione analoga. Si è parlato del buon feeling tra i due. Cosa significa? Sicuramente sì, si è potuto anche vedere molto anche nel linguaggio dei gesti. I due presidenti hanno più o meno la stessa età, 48 anni Obama e 43 Medvedev, quindi anche facendo sempre il confronto con Putin, che ne ha invece 56, c'è uno scarto. Hanno la stessa formazione giuridica, sono tutti e due avvocati, ma soprattutto diciamo maggiore appunto feeling, sintonia tra le due persone, gioca molto il fatto che Medvedev, a differenza di Putin, intanto non appartiene al mondo dei servizi e comunque non è cresciuto nella mentalità da guerra fredda, nel clima di sospetto, che forse è la cosa che rende più difficile arrivare a intendersi, a capirsi tra russi e americani. Medvedev viene da un mondo diverso e questo sicuramente facilita le cose. Si può dire che tutti i grandi obiettivi di Obama, in particolare questa visione cercare di guardare il mondo mettendosi nelle scarpe, nei panni di un'altra persona, l'obiettivo di liberare il mondo dalle armi nucleari, sono tutti obiettivi che in Medvedev si riflettono facilmente. Questo sicuramente aiuterà molto. Ecco, Medvedev dunque, ottimo feeling, molti punti in comune. Poi il giorno successivo dicevi l'incontro con Putin, che era stato preceduto anche da qualche puntura di spillo. Sicuramente non è stata una buona idea forse quella di Obama di rilasciare un'intervista proprio alla vigilia della partenza, definendo Putin come una persona che ha un piede nel presente e un piede ancora nel mondo della guerra fredda nel passato. Sono osservazioni che Putin non sa raccogliere bene e infatti ha subito risposto in modo molto piccato che la Russia è capace di tenere i suoi due piedi saldamente a terra ed è per questo che riesce a guardare al futuro e essere forte. Io penso che questo abbia influito sul clima, perlomeno all'inizio, il clima dell'incontro con Putin. Si è capito che non è stato un inizio facile. Forse poi le cose sono andate diversamente, è molto difficile riuscire bene a farsi un'idea di cosa si sono detti davvero, anche perché le due delegazioni poi al termine dell'incontro tendono un po' a girare le cose un po' come vogliono. Per esempio il collaboratore di Putin, il vice capo dell'amministrazione del primo ministro, che ha detto Obama ci ha dato la garanzia che terrà conto della posizione della Russia nei confronti di Ucraina e Georgia, cioè saprà capire che ci sono delle relazioni particolari, non è un legame come con qualsiasi altro Stato, quello che esiste tra russi e ucraini. Ecco, questa frase, se davvero è stata pronunciata in questo modo, è molto indicativa, perché davvero potrebbe essere, al di là di quello che poi Obama ha detto poi in pubblico nei discorsi successivi, però potrebbe essere davvero un tentativo di guardare con occhi diversi la continua crisi tra Russia e Ucraina. Se davvero, certo, bisogna anche ricordare come Obama in realtà in campagna elettorale sia stato capace di grandissima prudenza e poi nella gestione anche della questione georgiana. 30 minuti in cronaca. E sulle note di questa storica, direi, canzone dei Beatles, abbiamo parlato appunto di queste punture di spillo tra Obama e Putin, l'evocazione dell'Unione Sovietica che però è lontana, passata, finita. Torniamo all'attualità. Antonella Scott, lo ricordiamo, in collegamento da Mosca. Come è stato accolto Obama dall'opinione pubblica russa, dai giovani, dalla gente, come si dice? Sì, è stato detto molto, che è stato sottolineato il fatto che in realtà ci sia stata una indifferenza sorprendente dei russi nei confronti di Obama. Sicuramente questo non è un paese che si fa influenzare dalla Obama mania, che è sceso per le strade cercando a tutti i costi di avere un contatto, di vedere Obama. Qui anche tra i giovani la prima preoccupazione, pensando alla visita di Obama, erano gli ingorghi che si sarebbero magari creati con il traffico. Molti dicevano che comunque noi in Occidente ne parliamo troppo, e anche è stato sottolineato il fatto che all'università, a questa New Economy School dove Obama ha parlato, gli studenti non gli hanno riservato l'accoglienza calorosa che invece è stata riservata a lui a Praga e al Cairo. Insomma, i russi si scaldano meno? Ma sì, sicuramente è anche un po' una questione di carattere, di capacità di manifestare, di esprimere i propri sentimenti, però c'è da tenere presente il fatto che comunque i russi sono indifferenti verso il potere in generale, non è una questione contro Obama o indifferenza verso di lui, innanzitutto perché sono completamente delusi, convinti di non poter influire minimamente sulla politica, e quindi hanno comunque sviluppato negli anni un atteggiamento di questo tipo, e soprattutto per loro è difficile riuscire a farsi influenzare dall'idealismo di cui Obama è portatore, proprio perché invece hanno testimoniato un crollo dei loro ideali, hanno vissuto per anni nell'idea che l'America comunque fosse il nemico, che l'America si approfitta della Russia. Insomma, l'Obama Dream non attecchisce facilmente in territorio russo, ma in questo non c'è diciamo nessuna particolare problematica rispetto al leader americano. Antonella Scott, vorrei tornare diciamo agli accordi tra Mosca e Washington. Uno riguarda le truppe americane e l'Afghanistan. Cos'è accaduto? La Russia ha dato il suo consenso a far passare sul proprio spazio aereo diciamo circa un 12 voli al giorno americani diretti in Afghanistan per il trasporto truppe, ma questo è importante, con invece anche materiale bellico. Questo per l'America vuol dire che soprattutto un grande risparmio proprio di denaro. Si calcola che circa 133 milioni di dollari all'anno in meno sarà il risparmio, perché potendo attraversare lo spazio aereo russo dall'America possono sorvolare il Polo Nord e evitare il tragitto di ora che li obbliga a una rotta più lunga. Molto più lunga. Ecco, ma questa è la prima volta che viene fatta una concessione di questo tipo? Sì, anche se la vera il vero passo avanti su cui si sta negoziando è la concessione del territorio, cioè la possibilità di utilizzare la Russia via terra. Questo sarebbe il vero, darebbe agli Stati Uniti la Russia via terra addirittura. Sì, sì, sì, sì. Sembra che ci sia una certa disponibilità. Sembra fantascienza. Beh, c'è da dire che comunque la cosa è complicata dal fatto che ci sono poi comunque, cioè la Russia non confina direttamente con l'Afghanistan, quindi bisognerà avere anche gli accordi con le repubbliche, altre ex repubbliche sovietiche. Questo sarebbe il vero passo avanti, perché il problema degli americani adesso è la via del Pakistan, che è la via di terra attuale, da cui passano circa un 90 camion al giorno, e che però non sono sufficienti, se pensiamo che tutto deve essere rifornito dal carburante a non solo appunto veicoli militari. Insomma, i russi hanno socchiuso una porta, ma dici gli americani potrebbero ambire a qualcosa di più significativo. Vorrei chiederti di venire ai nodi aperti. Finora abbiamo in qualche modo tratteggiato una cordiale intesa tra leader. Che cosa invece magari non è stato messo in primo piano, ma resta doloroso per entrambi gli schieramenti, per entrambi i paesi, e irrisolto? Beh, i grandi problemi dell'atteggiamento della Russia nei confronti dell'Iran, dell'accettazione del sistema di difesa antimissile, questi sono tutti temi su cui non si sperava veramente in passi avanti o in dichiarazioni aperte nel summit. L'atteggiamento della Russia, se cambierà, se sarà più disponibile a unirsi alla politica occidentale nei confronti dell'Iran. Quello che però fa pensare che davvero sia veramente difficile un reset, questo rilancio nei rapporti tra Russia e Stati Uniti, su cui rimarranno sempre su fronti diversi, è il nodo dell'energia, secondo me, cioè la lotta per l'influenza nelle rotte, nelle repubbliche dell'Asia centrale. Qui la Russia è ben decisa. Quindi i grandi produttori di gas e petrolio che alimentano questi streams, in questi anni si è parlato molto, no, di tutti i nuovi gasdotti e oleodotti, di fatto gran parte di questi nascono, hanno le loro sorgenti nelle ex repubbliche che hai citato poco fa. Sì, quindi questa è la lotta per il Caspio, per gli Stati Uniti, per aprire delle vie di rifornimento verso l'Europa che bypassino la Russia, è cominciata subito dopo il crollo dell'URSS, e ora che la Russia ha ripreso forza, diciamo, non ha nessuna intenzione di cedere, lo ha dimostrato proprio lo stesso Medvedev andando in Azerbaigian pochi giorni prima dell'arrivo di Obama per assicurarsi l'acquisto di gas a zero, che sarebbe poi il gas su cui si contava per rifornire il progetto europeo Nabucco. Insomma, buoni rapporti senz'altro, ma senza dimenticare, anzi rafforzando, le priorità strategiche di Mosca. Certo, ecco, su questo sicuramente è Putin, diciamo, che poi alla fine è quello che ha in mano il paese, non ha nessuna intenzione di cedere, e forse la possibilità di un'intesa è proprio nella capacità, chissà, di arrivare a un compromesso, a, come appunto dice Obama, cercare di capirsi, di capire le rispettive posizioni, anche se sembra almeno su questo fronte davvero molto difficile. Molta strada da percorrere. Un minuto vorrei dedicarlo al tema dei diritti civili. Obama era atteso dai gruppi, dall'opposizione, dalla piccola opposizione russa. Che cos'è accaduto? ha incontrato i leader dell'opposizione come ultimo dei suoi incontri. Leader dell'opposizione vuol dire i comunisti che sono rappresentati in Parlamento, ma anche partiti come il partito, diciamo, liberale di Boris Nemtsov, di Kasparov, che non hanno possibilità di entrare in Parlamento. E è stato però molto cauto anche con loro, sicuramente cauto anche nel spiegare subito di non voler arrivare con l'atteggiamento di chi dà lezioni. Ha detto che c'era una grande umiltà nel suo atteggiamento e che all'America non, l'America ha ancora molto da migliorare anche per la sua propria democrazia. E questo deve essere piaciuto, perché probabilmente anche quello che causava le incomprensioni negli anni precedenti era un po' l'atteggiamento di chi sale in cattedra da parte degli Stati Uniti. È però vero che comunque Obama è stato molto, perlomeno in pubblico, molto cauto nei confronti delle autorità, ha esaltato Medvedev proprio di fronte in questo incontro con i leader dell'opposizione, chiudendo un po' un occhio sui grossi problemi che restano aperti, tant'è vero che proprio mentre lui era con loro fuori dall'albergo in cui si trovava Ritz-Carlton, hanno fermato delle persone che volevano manifestare per Khodorkovsky, per i leader dell'opposizione. Per i nodi aperti appunto della Russia di oggi. Antonella Scotti, in una battuta proprio, Obama e Medvedev, dunque, sono giovani, belli, telegenici, sono davvero una coppia di potere o piuttosto una sorta di illusione ottica del mondo che vorremmo, a tuo avviso? Forse un pochino sì, noi vorremmo che fosse così. C'è una frase che mi ha colpito di un sociologo, Boris Dubin, che sentivamo l'altro giorno. Lui ha detto Medvedev l'hanno scelto perché è una persona che non ha una sua base di potere, perché è dipendente, non indipendente, e il guinzaglio con cui Putin lo tiene è molto corto. Quindi tutto il positivo che può essere venuto fuori nei confronti, nel rapporto tra Obama e Medvedev, purtroppo non riflette tutto il quadro. Grazie ad Antonella Scott, lo ricordo, ci ha raccontato da Mosca questa importantissima visita, la prima del presidente degli Stati Uniti Barack Obama a Mosca. Siamo in conclusione, ringrazio Carmelo Lauricella in regia, vi ricordo solamente radio24.it per sentire e risentire questo e tutti gli altri programmi di Radio 24.